听众朋友，刚才您欣赏到的是由阿基列斯、贝里托纳、莫奈特演唱，罗马歌剧院合唱团乐团演出，塞拉芬指挥的意大利作曲家威尔第的歌剧《茶花女》上半部分录音。稍后请您继续收听。 聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音图。 Once upon a dream。 听众朋友，这里是北京音乐广播合唱团乐团演出，塞拉芬指挥的意大利作曲家威尔第的歌剧《茶花女》下半部分录音。 petto. Mille servi, riponemi il petto. Mi lasciate, lasciate la vendetta. Non più dote, partiamo a fretta. A pompoi, assorbi tu. No, colpo in mano.

aria feci? A chi? Dillo, chi potea? A chi dritto pienna mea? Fu tu fai? Sì! Dunque ami! Beh, l'amo! A tutti a me! Questa donna conoscete, che facesse non sapete. Taci! Ogni sua verta il femmina, per amor mio, perdea, io cieco, via, misera, tu accettar avea, ma tempo ancora tergermi, da tanta macchia bramo, vita stima. Testiman vi chiamo, or testiman vi chiamo, che qui, è qui pagata. All'alma più non ragiono, dai perdono, più non avrò. Volle a fuggirla, non ho potuto, dall'ira spinto son qui venuto, orché lo sdegno ho disfogato, m'è sciagurato rimorso.

Thank you. sposi, che voglio dirvi? Prevenirvi volli una gioia improvvisa. Una gioia? Del chiesti? Sì, oh signora. A te, a te venessi. E vieni, a te, a te, a te. Da questo palpito si otterrà in pace, senza desistere più non potrei. Ma sangue in vita, mai ridonata, per riconcedere non puoi di nuovo. Scorda l'affetto, donna adorata, a me perdona il genitor. Io ne perdoni l'aria salio, ma solo amor da dire in te. L'uomo debole, angel mio, mai più di vivermi potrà da te. Thank you. Padre mio, di più non lo cerrarmi, troppo rimor sarai ma mi dimora quasi folla terra ogni suo detto ama il cauto vegliardo il mal che io feci ora sol vedo Ciglio